Sono sempre Uriel, il guardiano del cancello ovest. Oggi vi racconto di André. La coltivazione. Gabriel era seduto accanto alla teca, faceva il solletico al bambino custodito all'interno. Il bambino aveva grandi occhi nerissimi, come la pelle e i capelli ricci e folti. Ridacchiava afferrando le dita di Gabriel. Lavia si avvicinò e si appoggiò sulla teca guardando Gabriel con simpatia. «Partirà domani», disse guardando il bambino. Gabriel annuì, poi alzò lo sguardo verso Lavia. «Ruanda», specificò serio. Anche Lavia si fece seria. Gabriel e Lavia si trovavano nella sala delle coltivazioni. La sala delle coltivazioni è il luogo dove sono allestite teche di cristallo in cui creiamo le vite. Per intenderci posso dire che le nostre teche di cristallo sono simili alle vostre incubatrici, ma se le vostre incubatrici sono relative a situazioni problematiche le nostre teche, al contrario, sono il luogo in cui fiorisce la vita. La parola fiorisce non l'ho scelta a caso perché di una vera e propria coltivazione si tratta. Quando ci trovavamo nella nostra città la sala delle coltivazioni era un salone che occupava il piano più alto del palazzo dove c'erano i laboratori di Raphael. All'epoca era molto luminosa con grandi vetrate che affacciavano sui giardini. Da quando fummo costretti a fuggire dalla nostra città la sala delle coltivazioni era sempre molto grande, sempre adiacente ai laboratori di Raphael ma senza finestre, piuttosto era illuminata da una luce blu molto riposante e dalla luce perlacea che proveniva dall'interno delle teche. A prendersi cura dei nuovi nati poteva essere una persona singola, una coppia, un gruppo, fondamentalmente però tutti noi ci prendevamo cura di tutti i nascituri, erano figli di tutti. La crescita è piuttosto veloce, e io in particolare mi diverto ad osservare le loro evoluzioni, passo le mezz'ore appoggiato alla teca e mi perdo in mille pensieri su come sarà la loro vita. Questo è uno dei motivi per cui spesso mi ritrovo ad arrivare in ritardo agli appuntamenti. Mi rimproverano sempre che mi perdo in fantasticherie. Io e Michael entrammo rompendo l'atmosfera ovattata della sala. Dal laboratorio Raphael fece capolino incuriosito. Poche storie, sentenziò immediatamente Michael, da ora in poi quelli che partono per la Terra devono avere già un loro nome, deciso, insindacabile e immutabile. E più nervoso del solito, dissi io indicando Michael. Un minimo di scelta? Lo canzonò ridacchiando Raphael tornando verso il laboratorio. Facci una tisana con le loro scelte, tuonò Michael, nostro fratello sta mischiando le carte, sulla terra non ci si raccapezzano, poi indicando il bambino nella teca accanto a Gabriel, lo sai cosa rischia di diventare? Da ora in poi tutti devono ricordarsi da dove arrivano e cosa devono fare, continuò Michael. Ma il re, provai ad intervenire. Uriel per favore. Non ti ci mettere pure tu. Me la vedo io con il re, sentenziò Michael. Camomilla? Gli sorrise Raphael tornando dal laboratorio porgendogli un bicchiere. Basterà? Ridacchiai.